Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi nel nostro menù una puntata forte impronta cinese, nella quale faremo il punto sia sulle opportunità ma anche sui sempre più numerosi rischi di un espatrio in Estremo Oriente. Sentirete perché tra poco. A proposito, oggi tornano anche sia la nostra rubrica mensile L'Ideogramma, dedicata proprio alla Cina, sia Contro Esodati, con le storie di chi ha deciso di rientrare in Italia. Giovani Talenti. La prima tappa ci porta dritti alla nostra frase della settimana. Cooperet, dell'ultima ricerca sulle migrazioni qualificate pubblicata da IDOS, i giovani lasciano l'Italia non solo per l'insoddisfacente andamento occupazionale, ma anche perché sono cresciuti in un mondo globalizzato e sono interessati a valorizzare le proprie capacità laddove vi sono maggiori opportunità. Un'affermazione sempre più vera, va constatato. E la lunga recessione che ha colpito l'Italia è ricaduta quasi interamente sui giovani. Gli individui tra i 18 e i 34 anni che vivono in condizioni di povertà assoluta hanno superato la soglia del milione l'anno scorso sulla base dell'ultimo rapporto Istat. Uno su 10 si trova in questa condizione di povertà assoluta. 10 anni fa l'incidenza era appena del 3,9%. I giovani in povertà assoluta sono il doppio degli anziani. E c'è pure chi, anche e soprattutto per fare un vero salto di qualità, sceglie l'estero, inseguendo ambizioni che molti coetanei rimasti nella penisola devono purtroppo reprimere. Onestamente quello che viene offerto in altri paesi, nel mio caso per quanto riguarda la Cina, non solo in termini monetari, anche in termini di opportunità, di sogni, non li possono offrire le imprese italiane. Matteo Giovannini, 36 anni, è un senior manager per la banca cinese ICBC a Pechino, in Cina. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora Contro Esodati. Riprende proprio da oggi, primo sabato di ottobre, la nostra rubrica. Vi raccontiamo oggi la storia di Paolo Balboni, 37enne avvocato di rientro nella penisola. Paolo ha mantenuto una forte dimensione europea, come ci racconterà tra poco, continuando a lavorare su scala internazionale. La storia del suo ritorno, l'Italia che ha trovato e il messaggio di cambiamento per il suo paese sono al centro dell'intervista che ha rilasciato a Giovani Talenti. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ascoltiamo adesso la storia di Paolo Balboni. Mi trovavo in Olanda, a Tilburg, una remota cittadina al sud dell'Olanda, dove ho lavorato all'università per diversi anni, completando un dottorato di ricerca appunto in diritto comparato della privacy e delle nuove tecnologie. E poi in Olanda tu sei rimasto a lavorare? Sono rimasto a lavorare appunto presso l'università e mi sono poi successivamente spostato per la prima volta in Italia con un rientro su Milano per completare quella che era la pratica forense e diventare avvocato. Ci sono stati altri motivi che ti hanno spinto a tornare in Italia? Ma diciamo che il ritorno poi in Italia in maniera convincente è stato proprio il fatto di poter sfruttare quello che era il vantaggio competitivo delle competenze acquisite all'estero già appunto all'inizio degli anni 2000 in queste materie e giocarmele poi su un mercato italiano dove ancora queste competenze non erano completamente sviluppate. Che paese hai trovato al tuo ritorno? Un paese non particolarmente cambiato da quando l'avevo lasciato, e forse questa è un po' la caratteristica di un po' italiana nel lato più negativo, nel senso che è un paese che affronta il cambiamento con dei ritmi meno serrati e meno veloci di altri paesi come l'Olanda. In termini positivi invece è un paese che a mio avviso comunque offriva e continua ad offrire varie opportunità per chi naturalmente riesce forse a specializzarsi e a trovare delle nicchie interessanti di mercato. Quindi, se capisco bene quello che dici tu, ci sono le opportunità anche in Italia, però bisogna trovare la nicchia giusta, bisogna essere specialisti. Assolutamente, io penso che l'Italia offra delle grandissime opportunità. È chiaro che bisogna affrontare questo mercato con una decisione fortissima, perché è un mercato molto difficile, bisogna affrontarlo con coraggio, con determinazione, soprattutto mettendo in discussione quelli che sono gli schemi e i cliché tradizionali delle professioni. Ecco, non ci si può più rapportare a questo mercato pensando di fare una professione nello stesso modo per più di un anno. bisogna essere molto veloci nel cambiamento, nell'adattamento e nell'offrire qualcosa di competitivo e adeguato per il mercato, ma di opportunità ce ne sono veramente molte. Tu ti definisci un pendolare europeo, perché? Sì, lo sono, perché di fatto vivo veramente il 50% del mio tempo in Olanda e il 50% del mio tempo in Italia. Oggi vi segnaliamo anche il Forum Mondiale dei Giovani in corso a Trieste fino a domani, presenti una cinquantina di giovani studiosi da tutto il mondo, il tema lavoro e sconvolgimenti epocali che ne hanno mutato la fisionomia in quest'ultimo decennio. E vi segnaliamo anche il nuovo bando di concorso Intercultura aperto fino al 10 novembre per i programmi all'estero 2017-2018, oltre 2000 i posti a disposizione per 65 paesi in tutto il mondo riservati agli studenti che frequentano la scuola media superiore, 1400 le borse di studio totali o parziali, tutte le info su www.intercultura.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Cina per parlare in modo molto schietto e diretto di rischi e opportunità professionali nell'estremo oriente. Nome: Matteo. Cognome: Giovannini. Età: 36. Città di origine: Trento. Studi: Economia e Commercio a Milano, MBA a Pechino. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2013. Per andare dove? Cina. Perché? Per mettermi in gioco e crescere. Quale lavoro svolgi attualmente? Senior Manager in ICBC. Dove? A Pechino. Tornerai? Probabilmente sì, ma nel lungo periodo. Ho lasciato un posto fisso a tempo indeterminato in Italia perché deluso dalla staticità e dalla mancanza di crescita interna offerta. Ho fatto una scommessa che piano piano si sta rivelando vincente. Così Matteo riassumi gli ultimi 3 anni di vita in Cina. È questo il segreto, ti chiedo, per emergere in un'epoca così globale, guardare oltre la propria zona di comfort, prendersi dei rischi? Credo di sì, ma ero arrivato a un punto per cui il posto fisso non era più quello che desideravo. Ero arrivato a una situazione di staticità, di plateau in cui non potevo crescere, e l'unico modo per crescere era cercare una nuova sfida, e la sfida mi è stata data da una serie di passioni che avevo, tra cui la passione per la Cina e cercare di internazionalizzare anche il mio percorso professionale. Internazionalizzare, questa è la parola chiave. La tua carriera prende le mosse con un trasferimento da Trento a Milano per studiare economia e commercio in Cattolica. Cosa volevi fare da grande? Volevo avere una opportunità in una grande impresa italiana inizialmente. In un voto, il tuo giudizio sugli studi in Italia: potessi tornare indietro, ti laureeresti qui? Credo di sì, sono molto soddisfatto della formazione che ho avuto in Cattolica, per i valori che mi hanno dato e anche per il tipo di impostazione di formazione degli istituti italiani. Il tuo voto alla formazione? Non è un voto, darei un 8. Perfetto. Apro e chiudo una parentesi. Quali sono i percorsi di studio universitari a tuo avviso più utili oggi per avviare una carriera di successo nel settore economico aziendale? Oggi come oggi credo che tutto quello che riguarda l'information technology, tutto quello che è collegato ai computer, quindi tutto quello che riguarda il coding, la statistica, i big data, sono molto importanti per avere una grande prospettiva. La faccio breve: dopo la laurea avvio un master in multimedia management, sempre in Italia, che ti porta all'interno di uno dei principali gruppi editoriali, dove resti 7 anni prima come Junior Financial Controller, poi come Financial Accountant. In pratica, di cosa ti occupavi? Mi occupavo di tutto quello che riguarda la contabilità, cioè tutto quello che riguarda i numeri, tutto quello che riguarda la pianificazione, le strategie, quindi la preparazione di report, la preparazione di budget, forecasting. È stimolante lavorare in Italia? Lo è stato inizialmente, ero molto soddisfatto, uno dei miei sogni era proprio quello di entrare in una grossa impresa italiana. Poi oggi come oggi, se io mi laureassi oggi, onestamente direi di no. Allora, c'è un punto di svolta nella tua carriera che prende le mosse dalla tua passione per le lingue e le arti marziali. Svolta che nasce anche da un'osservazione: vedevo i giovani cinesi e indiani andare in Occidente a studiare per avere una visione completa del mondo, mentre noi occidentali restavamo nella nostra comfort zone, spaventati da mete così lontane. È per questo allora che prendi al volo l'opportunità di una borsa di studio dell'Istituto Confucio? È stata un'opportunità eccezionale, perché l'esperienza di studio con l'Istituto Confucio è stata molto importante per me, e ho visto per puro caso il bando di concorso per queste borse, di cui non ne sapevo assolutamente niente, e ho fatto domanda, e veramente è stato il punto chiave, il punto di svolta del mio percorso. Voli a Dalian per studiare cosa? Sono stato per studiare lingua e cultura cinese. E tornato in Italia decidi che è l'ora delle grandi decisioni. La mia azienda non mi poteva offrire nulla per valorizzare l'esperienza fatta in Cina. Cina si rammaricarono di non essere in grado di trattenere i talenti. Ricordi, con un po' di amaro in bocca. Allora ti chiedo, non è paradossale sapere di perdere capitale umano ma non fare nulla per trattenerlo? Perché avviene in Italia una cosa del genere? Credo non ci sia, da una parte non ci siano le risorse per trattenere le persone, perché onestamente quello che viene offerto in altri paesi, nel mio caso per quanto riguarda la Cina, non solo in termini monetari, anche in termini di opportunità, di sogni, non li possono offrire le imprese italiane, e anche le persone degli uffici del personale di queste aziende italiane non hanno gli strumenti per trattenere le persone. E nel mio caso specifico, una volta tornato da Dalian, mi è stato detto: adesso lei ha acquisito delle competenze importanti che vorremmo riutilizzare, magari inserendo nella nostra direzione affari internazionali, però non c'erano posizioni aperte, quindi non potevano offrirmi niente che quello che avevo prima di partire per Dalian. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Matteo Giovannini, 36enne manager per una banca cinese a Pechino. Matteo ha capito presto che le opportunità di crescita professionale in Italia erano per lui molto limitate e limitanti. Così ha colto l'occasione al volo di un periodo di studio in Cina per cambiare aria. Gli è bastato un MBA per venire assunto in Estremo Oriente, e dalla Cina Matteo ci racconta un paese stimolante, ma tutt'altro che semplice da affrontare. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Che paradosso, verrebbe da dire. In Cina torni per un MBA alla Peking University, dove riesci anche a conquistare una borsa di studio. Cominciamo dall'inizio. Quanto è stato difficile per te adattarti ad una cultura e a stili di vita radicalmente diversi? È stato estremamente difficile, per essere onesto, nell'esperienza di Dalian, perché è stato il primo impatto. L'esperienza di Pechino, che è stata successiva, non è stata così difficile, devo dire, perché Pechino è molto più internazionale e l'esperienza che ho avuto in precedenza a Dalian mi ha aiutato molto. Anche qui, voto e livello di insegnamento delle università cinesi? Per quello che riguarda Dalian, ho avuto un'impostazione di tipo cinese, quindi direi un 6-7. Per quello che riguarda l'MBA era molto più di taglio internazionale, direi 8-9. Tu trovi lavoro addirittura prima di concludere il master. Quale percorso di selezione affronti e per quale posizione? Sono stato selezionato da ICBC, che è la banca più grande del mondo, e loro volevano praticamente creare un ufficio con del personale internazionale per espandere il business, e mi è stato dato il ruolo di senior manager. Qual è il tuo consiglio a un coetaneo che sta pensando a un espatrio in Cina? C'è ancora posto per lui o anche il mercato del lavoro in Estremo Oriente sta cambiando? Credo che oggi come oggi sia molto molto difficile per un non cinese trovare lavoro in Cina, perché una volta era facile, bastava sapere l'inglese, andare lì ed era molto facile trovare un'opportunità. Oggigiorno i cinesi vanno all'estero, si formano alle università, come dicevo, americane o britanniche, quindi per le aziende cinesi non è praticabile assumere uno straniero, per cui ci vuole molto più tempo di inserimento, di formazione, che una persona locale. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, è una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia che vedo dall'estero, per essere onesto, la vedo come molto vecchia e stanca, e la cosa che ho visto anche confrontando con la realtà dove sono, dove c'è un continuo prevalere degli interessi personali e particolari, confrontato invece con la Cina, dove c'è molto più una focalizzazione per gli interessi della collettività, per l'interesse del paese, e loro spuntano molto sul patriottismo. Direi, per quello che riguarda un suggerimento, è sicuramente cercare di snellire la burocrazia. La Cina, per esempio, è molto burocratica e riescono comunque a mandare avanti le cose in maniera decente. Hanno più di 1 miliardo di persone, non capisco perché noi, che siamo 60 milioni di persone, non riusciamo a far funzionare la macchina, il sistema. Ci raggiunge ora in linea la professoressa Alessandra Lavanino, direttore dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, partiamo con lei dalla storia di Matteo. Quante, come la sua, ha potuto testimoniare in prima persona negli ultimi anni? Va a finire sempre così bene? No, certo, la storia di Matteo mi sembra una storia abbastanza esemplare, però non è la sola. Io vorrei precisare una cosa. Io dirigo l'Istituto Confucio Università degli Studi di Milano, ma da 15 anni noi abbiamo un corso di mediazione linguistica e culturale di tipo economico, giuridico e sociale presso l'Università degli Studi. L'Istituto Confucio è una cosa che è a parte, c'è un'università che forma con corsi professionalizzanti studenti e studiosi che hanno la Cina o altri paesi come focus. Quindi non dimentichiamo, certamente l'Istituto Confucio è una istituzione che nasce recentemente in varie università italiane e straniere, sono in tutto circa 500 gli istituti Confucio nel mondo, in Italia sono una dozzina, situati presso università e istituti superiori italiani, che servono proprio, hanno lo scopo proprio di diffondere e promuovere lingua e la cultura cinese. Ci spiega in pratica quali opportunità di studio e permanenza in Cina mettete a disposizione? C'è un canale istituzionale per gli studenti che studiano cinese dentro le università con corsi diversi, e qui ci sono borse di studio dei ministeri, accordi con singole università all'interno dei percorsi accademici universitari che durano dai 3 ai 5 anni, e questa è una grossa opportunità che da sempre, pur con i mezzi difficili che il nostro paese ha, noi offriamo ai nostri studenti. Quanti studenti mandate in Cina? Quest'anno saranno una settantina. Restano lì o scelgono di tornare? Beh, dipende, perché sai, se sono ragazzi giovani che devono finire un percorso universitario, finiscono, magari tornano, vanno 6 mesi e poi tornano. Se sono persone più grandi, e Matteo faceva parte di questa altra parte, diciamo dei corsi serali dell'Istituto Confucio, quindi per la cittadinanza, è chiaro che poi per loro è un percorso di formazione per persone che lavorano già. Sono due, diciamo, i canali. Sì, è chiaro. Beh, le faccio una domanda cruciale. Quanto è importante formare anche a livello aziendale, soprattutto le nostre imprese che fanno business con la Cina o l'Estremo Oriente, sono sensibili all'idea di avere talenti preparati al mondo dell'Estremo Oriente, o alla fine, un po' come nel caso della storia Matteo, si fanno sfuggire questa opportunità? Ci vuole un grosso lavoro di sensibilizzazione, perché molto spesso le imprese preferiscono passare attraverso, non so, l'interprete d'inglese che non conosce la realtà, affidarsi appunto a tecnici cinesi, senza pensare che formare un loro dipendente che abbia l'occhio alla Cina è una cosa che fa molto. I nostri ragazzi vengono molto spesso adesso assunti da imprese cinesi che sono qua, che sono in Italia, che sono ormai sul territorio, che hanno bisogno loro di capire anche come funziona il nostro sistema. Su quali settori consiglia di puntare se si vuole andare a lavorare in Cina? Beh, a lavorare in Cina, secondo me, uno dei settori sui quali si lavorerà benissimo è quello del turismo. Grazie alla professoressa Alessandra Lavanino. E domanda diritto per Matteo Giovannini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Assolutamente di cogliere l'occasione se ne ha l'opportunità, non di partire così all'avventura senza una cosa seria. Lasciare un posto fisso oggi è comunque difficile e bisogna lasciarlo per qualcosa di veramente concreto. La preparazione è fondamentale, in Asia è presa molto seriamente e anche remunerata. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Riparte oggi anche l'appuntamento con l'ideogramma, osservatorio sulle storie e le opportunità in Cina, paese che fa da sfondo, come ormai avrete capito, a questa puntata. Emanuela Verrecchia ci porta a esplorare le occasioni in un preciso settore. Sentiamo quale dalla sua viva voce. Ancora una volta quella che io nel mio blog definisco la Cina di frontiera, cioè la Cina delle città di seconda, terza, quarta fascia, sembra offrire interessanti opportunità professionali rispetto alle più gettonate Shanghai, Pechino, Canton o Shenzhen. Oggi in Cina, oltre a figure professionali in settori tecnologici che abbiamo visto nella passata stagione dell'ideogramma, c'è una buona richiesta nel settore delle vendite e della formazione di venditori. A un giovane italiano che cerchi lavoro in Cina suggerisco di guardare a multinazionali e non limitarsi ad aziende italiane presenti in Cina o ad aziende unicamente cinesi. La conoscenza del cinese è sicuramente utile, ma non è dirimente. Invece è fondamentale una buona padronanza dell'inglese e la capacità di comunicare, di entrare in contatto profondo con le persone. Ecco, ricordandosi che solo il 20% della comunicazione è influenzato dalle parole. Al di là della nazionalità poi di ognuno, le qualità che più contano in questo come in altri campi sono la passione, la creatività, la curiosità, il desiderio di imparare di continuo e ovviamente le competenze specifiche. Per i giovani che vogliono intraprendere in Cina una carriera nel settore vendite, studi mirati anche nell'e-commerce o nel retail